le fibre, che sono molto utili per la buona funzione del nostro tubo digerente, no? Sì. E anche per la prevenzione del cancro, ma non serve mettere dentro delle fibre isolate, no? Inutile togliere e poi aggiungere, lasciamo così? Esattamente. Vero? Sì, esattamente. Senta, professore, non si può da un giorno all'altro, almeno credo, no? Sia difficile passare dal raffinato all'integrale, è meglio procedere per gradi. Certo. Dato che voi all'Istituto dei Tumori organizzate anche dei corsi di cucina, come le ricordate, quindi abituate, no? Anche a prendere un po' dimestichezza con questi sapori, ci aiuti a dare qualche indicazione ai nostri amici, certo, in ascolto, in modo da fare gradualmente questo passo? No? L'importante è proprio la gradualità, nel senso che l'intestino che non è abituato a mangiare dei cibi integrali, se improvvisamente ti metti a mangiare il pane integrale e i fagioli, no? E poi ti scoppia la pancia perché c'è una grande fermentazione, sì, insomma, no? Ma introducendoli con una certa gradualità si modifica la flora batterica intestinale. Sapete, nel nostro intestino vive un esercito di centinaia di miliardi di microbi, no? Cambiano i microbi, no? E vengono quelli che sono capaci di digerire le fibre. L'altro suggerimento importante è quello di masticare molto bene, no? Noi siamo abituati a ingurgitare senza masticare e l'industria ci propone sempre delle cose sempre più fini e più, sì, grasse, che vanno giù senza bisogno di masticare, no? Ma se noi mangiamo dei cibi integrali dobbiamo masticarli, tutto dobbiamo masticare bene, ma in particolare il cibo integrale ci costringe un po' a farlo. Esattamente. E l'altra cosa è imparare a cuocerli bene, perché la gente si lamenta molto, no, che per cuocere i cibi integrali ci vuole molto più tempo, e io rispondo sempre: sì, ci vuole tempo, ma tu lo metti sul fuoco, poi lo lasci lì, metti la sveglia, non è che, sì, devi stare lì a guardarlo. No, non si culla, È una questione di una piccola organizzazione casalinga, insomma. Grazie professore, buona giornata. Buona giornata a lei, buona giornata agli ascoltatori. E per oggi è tutto, vi saluto come sempre, vi aspetto domani. Buona giornata da Nicoletta. Essere e benessere.